Nella prima parte della nostra intervista a Paolo Vallerga abbiamo parlato del gioco, dell'invenzione del gioco, del rapporto tra immagine e contenuto, tra professionalità e inesperienza. In questa seconda parte invece cominciamo ad aprirci un po' di più alla vita del piccolo editore. La scorsa settimana abbiamo sentito qual è il punto di vista di Paolo sui distributori e in questa sentiremo parlare di promozioni, di Italia e di Europa, di consulenti, professionalità, inesperienza. Perché no? Sentiremo parlare anche di mercato, di soldi, di famiglia e di ironia. Nel corso delle nostre puntate abbiamo un po' perso di vista il gioco tradizionale in favore del gioco contemporaneo. Non è uscito dalla nostra sfera di interesse, ma piuttosto è la vitalità delle nuove realtà ludiche a voler conquistare lo spazio che, d'altro canto, meritano per la varietà che riescono ad esprimere, sebbene la natura di questi giochi sia molto differente da quelli tradizionali. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla decima puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio. Diamo inizio al conto alla rovescia che ci porterà al termine delle nostre puntate. Concludiamo pertanto la nostra chiacchierata con Paolo Vallerga, ma prima di proporvi i contributi dell'intervista, concludiamo il ragionamento cominciato nell'introduzione. I giochi da tavolo, come quelli creati da Scribabs e tutti gli altri giochi in commercio oggigiorno e di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, si differenziano sostanzialmente dai giochi tradizionali, come quelli astratti, ad esempio il Pacisi o il Mancala, se non altro perché la loro storia è nota e i loro scopi anche. Molti dei giochi nuovi, infatti, non vogliamo dire tutti perché non sarebbe vero, ma almeno i materiali di gioco quali pedine, dadi, tabelloni affini, vengono inventati, registrati con un marchio e poi costruiti e confezionati con il chiaro intento di metterli sul mercato e quindi di guadagnarsi da vivere. Altrettanto non si può dire per i giochi quali gli scacchi, la dama, il pacisi, il mancala, la dama e tutti i giochi tradizionali che vi vengono in mente. Non perché questo non sia di fatto accaduto, ma perché non ci è dato ai nostri giorni di poter dimostrare quando con esattezza siano nati questi giochi e in genere se fossero stati inventati con l'intenzione di venderli a qualcun altro, anche se possiamo dire tranquillamente che, esattamente come oggi, dadi, pedine, tabelloni eccetera erano in vendita anche nel lontano passato. Per questo, parlando con Paolo, vi sembrerà di ascoltare argomenti che esulano dal gioco stesso per sconfinare sul piano economico imprenditoriale. In realtà sono anch'essi aspetti della produzione di giochi e anzi assai interessanti perché entrano nel mondo delle cose e ci dicono molto del modo e del contesto in cui esse vengono realizzate. Adesso siamo pronti per lanciare i contributi dell'intervista. Vi ricordiamo soltanto, per concludere, che a termine della puntata ci sarà lo spazio dedicato al fogliaccio di Luca Cerrato, che ci parlerà questa settimana di un oggetto fondamentale nella storia dei giochi e anche nella filosofia, nel mito e nella religione, e cioè il dado. Bim Bum Bale Giù! Ma visto che siamo arrivati a questo parlare di attività lavorativa propria dell'autore, quindi contrattazione col distributore piuttosto che studio del prodotto nel dettaglio, io leggevo qui nelle mie piccole tracce una domanda un po' strana che io ho scritto così di getto, di cui non ero convinto neanch'io, ma adesso te la propongo e vediamo cosa ne esce. E cioè, come considera se stesso l'inventore di giochi da scatola? Che è una domanda un po' del cavolo, se posso dirlo, però effettivamente, cioè, come ci si considera? Cioè, si è artisti, si è artigiani, si è intellettuali nel senso di matematici per la questione dei sistemi di gioco? Qual è il talento che emerge in un autore di giochi? Allora, dunque, adesso scavalcherò la soglia della presunzione così, così passiamo. Chi ascolta e dice sì, mamma mia, quello come se la tira, eccetera, è una cosa un po' difficile, nel senso che io ho iniziato come autore di giochi, nel senso che mi sono inventato un gioco. Sì. Come studio grafico ho iniziato a pubblicarlo col mio marchio, quindi sì, diciamo che ho iniziato come autoproduttore. Sì. Dopodiché nel corso degli anni ho continuato questa cosa, ma ho aggiunto il fatto che ho iniziato a pubblicare giochi di altri autori. Sì. Cioè, tu hai una buona idea, me la sottoponi, io la analizzo, la valuto, la faccio giocare, se mi convince il progetto investo e lo pubblico come sì, editore, e tu sei autore, quindi ricevi le royalty da contratto, eccetera. Dopodiché questo mi ha portato anche ovviamente a fare la parte editoriale. contrattazione con distributori all'estero, in qualche caso a fare da agente, perché alcuni giochi a me piacciono ma io sono piccolo, non ho possibilità di pubblicare 2-3 giochi all'anno, sì. Quindi alcune idee molto belle in cui io credo ma non ho i mezzi, sì, per poterle pubblicare, magari le sottopongo a partner stranieri e quindi diciamo faccio da agente. Tra l'altro io sono che sì, nasco come grafico, sì, quindi la grafica dei miei giochi me la sono sempre curata io, sì, e negli ultimi anni comunque faccio artwork per altri editori, sì, quindi diciamo mischio un pochino tutte queste cose, sì. Per me è un po' difficile rispondere alla tua domanda perché non senza sei dire soltanto quello. Ecco, perché non sono solo un inventore di giochi ma sono più cose in questo settore, per questo probabilmente sono piccolo, sì, perché se io mi dedicassi esclusivamente a una cosa forse potrei ampliare il mercato e fare solo quella. In realtà io mi diverto molto a farle tutte. però una sì, cosa sì, vorrei dirla: chi si occupa di fare di inventare giochi è comunque un artista, sì, secondo me un artista è un artista, perché non è facile, sì, è come fare una canzone, sì, devi sottoporla, devi crederci, sottoporla al giudizio di un eventuale editore, se non ti soddisfa devi poter essere tranquillo e pubblicartela per conto tuo. In ambito musicale moltissimi grandi artisti, presentandosi la prima volta a un discografico, gli è stato risposto: guardi, i gruppi, sì, mi pare che ai Beatles fu risposto: i gruppi di chitarra non tirano. Per cui è importante confrontarsi con le idee di altri editori, sì, è importante credere nelle proprie idee, quindi se non ti soddisfa l'opinione di un altro editore ci sono i mezzi per autopubblicarti. Nella fattispecie io collaboro con una ditta di Novara che si chiama Postscriptum e loro seguono molto i giovani editori che vogliono pubblicare per la prima volta un gioco. In che senso? Gli danno consigli utili, sì, cioè un giovane editore non ha senso che faccia il gioco bellissimo ma con la grafica brutta, perché sì, non lo venderà. Oggi c'è una concorrenza talmente spietata che tu un gioco con una grafica brutta, a meno che non sia una cosa rivoluzionaria, sì, difficilmente lo trovi nello scaffale, sì. Bim bum bale giù. E questo un po' risponde alla domanda che ti ho fatto rispetto al rapporto tra contenuto di gioco, nel senso il gioco in sé, e tutto quello che c'è attorno al gioco, nel senso puoi creare un gioco bellissimo ma devi anche saperlo presentare, e quindi nel senso abbiamo, sì, parlato della copertina, e di nuovo torna il problema della grafica. Se non è una bella grafica non va da nessuna parte. Diciamo che è molto più difficile, sì, così come la scelta di alcuni componenti. Un inventore di un gioco può pensare a un meccanismo molto interessante, magari con delle pedine di legno. Sì. Confrontandosi con un editore che ha più esperienza potrebbe scoprire che anziché usare le pedine di legno può rendere molto più interessante il gioco usando delle carte, oppure utilizzando per esempio delle pedine in plastica, sì, perché magari il costo è minore, ah, oppure viceversa. In Germania il legno non costa tantissimo, no, infatti in Repubblica Ceca anche, secondo quindi... me è una delle cose che rende i giochi tedeschi così fighi. Ho scoperto che vendono anche un casino in questo periodo, secondo, sì, me è anche il legno, che io da piccolo ero molto affascinato dall'oggetto in legno, quindi nel senso il mio lato bambino diceva compra, sì, sì, sì, ancora perché... adesso mi parla. Ma infatti si punta abbastanza sul legno per determinate cose, le risorse di un gioco, devo comprare pietra, oro e che ne so, legno per costruire, sì, e tutti questi materiali se uno li fa in legno, sì, comprandoli dalle ditte giuste, sì, risparmia e ottiene un risultato molto buono risparmiando parecchi soldi, sì. Un giovane autore queste cose magari non le sa, no, e quindi è importante che lui parli con persone che ovviamente ci guadagnano, nel senso che è il loro lavoro, sì, quindi un minimo bisognerà pagarli, però questo costo ti fa risparmiare alle volte anche decine di migliaia di euro, che non è poco. Cioè se io per una consulenza, io non ne faccio, diciamo, io mi occupo di grafica per, sì, per terzi, però se mettiamo chiedessi 1.000 euro per una consulenza X, è ovvio che il costo che tu risparmi con questa consulenza magari può essere 5, 6, 7 mila, 8 mila, sì, a seconda delle cose che mi chiedi eventuale consulente. Quindi in ogni caso è importante per un giovane autore, sì, provare a ascoltare, sì, le realtà che ci sono intorno. Quindi bim bum bale. giù! Diciamo che il confronto è un aspetto molto importante della creazione del gioco, perché a me viene in mente quello che abbiamo detto sulle idee, nel senso, un'idea non bisogna difenderla come un fortino, bisogna lasciare che ci si lascia aiutare dagli altri, perché uno che inventa un sistema di gioco con le pedine e l'editore gli dice guarda che secondo me funziona meglio con le carte, in qualche modo sta cambiando il sistema di gioco, ma in meglio. Sì. Tu non avevi preso in considerazione le carte, io che sono esperto e apprezzo molto il lavoro che hai fatto e ti dico potrebbe essere molto migliore quel lavoro se tu lo facessi in questa maniera qui. La cosa si trasforma però per essere valorizzata. Ti faccio, sì, infatti è proprio questo il concetto, ti faccio un altro esempio sulla mia pelle e sugli errori, sì, di gioventù. Sempre il famoso gioco Millenarocca, sì, divenuto poi... Questo Millenarocca è stato... per me è stato abbastanza importante, sì, perché è stato il primo gioco che ho portato a Norimberga in una fiera, sì, che ho fatto vedere a un distributore canadese che io non avevo mai visto, questo passava dallo stand, lo ha visto, ha detto ah bello il gioco, mi piace, però appena lo metti a posto che mi dai la versione francese possiamo parlarne, è attualmente ancora il mio distributore dal 2003. Il discorso era, all'interno del gioco c'era un meccanismo per cui tu tiravi un dado e muovevi casualmente un mostro che si muove in questo castello, sì, anziché usare il dado, sì, se ogni giocatore quando deve muovere usasse delle carte in quel gioco lì, infatti, sì, poi abbiamo pubblicato sul sito una versione scaricabile delle carte per renderlo tattico, diciamo, sì, ottiene lo stesso risultato, ha delle carte da 1 a 12, sì, le gioca come vuole lui, sì, anziché il dado che rende casuale, lui le gioca come vuole lui, sì, quindi mette molta più strategia nel, sì, nel gioco, e ad esempio non le può usare, non le può riutilizzare finché non le ha usate tutte, quindi c'è una strategia proprio un po' diversa che tirare il dado e muovere la pedina. Sì, c'è l'urgenza di giocare la carta giusta al momento giusto, prima che ti finiscano, per far fare a questo personaggio quello che serve a te, e questo rende molto il tattico il, sì, gioco, e lo cambia profondamente, sì, nel senso che la versione col dado, per carità, è bella perché piace un sacco alle famiglie, ai bambini, sì, i bambini amano tirare il dado, ah, okay, e quindi il gioco funziona benissimo e loro si divertono. Il giocatore più smaliziato, sì, vede il dado spesso e volentieri ti dice è un gioco di fortuna, sì, il dado in effetti ha una componente di fortuna, in quel caso lì abbastanza spiccata perché è un dado, quindi come lo tiri viene, viene, sì, e invece il giocare con le carte lo stesso identico gioco lo rende strategico, sì, e questo è importante perché, sì, tu allarghi il mercato, quindi il la giovane autore, la differenza di un componente ti può cambia cambiare, cambia il target, cambia completamente e cambia anche il gioco, cambia il gioco non nella sua struttura, sì, non nella sua filosofia, diciamo, sì, ma semplicemente rendendolo più amabile, amabile a più persone. Bim bum ba! No, poi ovviamente c'è anche il fatto che dipende dalla tipologia di giocatori, sì. Ormai dopo un po' di anni che faccio fiere, soprattutto quando sono in Germania, a Essen, che questa fiera enorme dove c'hai gente che arriva da tutte le parti del mondo, che si siede al tavolo. Per far capire al pubblico italiano, che di solito è abituato a ragionare sul proprio salottino, quanto è più grande di Lucca? Quante volte è più grande di Lucca? Beh, a Essen ci sono 7-8 padiglioni. Boh, 7 padiglioni, fai conto che Lucca Games è praticamente un padiglione, sì, la parte comics è molto più grossa, è proprio il fumetto, ah, perché, beh, sì, c'ha tutti i padiglioni in giro, sì, per la, sì, città eccetera, però una volta erano 3, diciamo, che sì, racchiudevano, sì, tutto, sì, sì, più o meno lì sono il doppio, però la differenza qual è? Che c'è una marea di gente ma proprio non... ripeto, non che a Lucca non ci sia, è un, no, po', anzi, una è un po' una cosa un po' diversa per l'editore di giochi. Comunque Lucca è una fiera dove tu non vendi, per il piccolo editore, adesso, perché sennò se qualche editore un po' più grosso mi, sì, sente, si che arrabbia. Ok, mi si arrabbia, già mi manca solo di litigare con gli altri editori che conosco da una vita, peraltro. Allora, per un piccolo editore, sì, come me, una fiera come Lucca non porta grandi incassi, perché io pubblico un gioco all'anno, se va bene, se, sì, tutto va bene, in genere uno ogni 2 anni, perché i tempi per me sono quelli. Però, quindi, quando ho la novità, la gente viene, lo compra e il gioco funziona. Essen è proprio un altro pianeta, nel senso che conviene fare delle liste di preordini. Addirittura. Sì. Cioè tu vai lì che hai già venduto. Spesso può capitare così, se tu hai un gioco che lo promuovi bene, fai una giusta, crei la giusta attesa nel, sì, pubblico, ti conviene probabilmente fare delle liste di preordine. Tu gli fai, proponi lo sconto, sì, chi lo acquista col colpo e ordine, e hai anche un'idea di quanti pallet, per dire, far portare dal magazzino, uno, due, quello che è. Sì. Okay. Questa cosa non capita a Lucca. No, immagino. Al piccolo editore come me. Al piccolo editore, certo, anche perché è già difficile farsi conoscere in Italia. Io ho conosciuto Scribabs un mese fa, per dire, esiste da 10 anni, quindi evidentemente la comunicazione ludica in Italia è minima, cioè lo sai perché sei un iper appassionato, nel senso non esiste l'appassionato medio, mi sembra di aver capito. Sì. In effetti è molto di nicchia, e molto nicchia nella nicchia, cioè sì. Il piccolo editore italiano anche nella nicchia rimane piccolo e abbastanza sconosciuto. Sì. Io mi sono, per un, diciamo, sempre scavallando nella presunzione, no? Ogni tanto metto un piede di là. Per rassicurare gli ascoltatori posso dire che in realtà è molto autoironico, perché appena inizia un pochettino a tirarsela diventa rosso come un peperone, quindi no, non vuol dire che se la sta veramente tirando. No, dicevo che mi sono un po' stufato nel corso degli anni di dire sui siti di ludici, dove si parla di giochi, dove ci si autopromuove, sì. Di autopromuovermi. Sì. Io ho cominciato a ragionare in questo senso, sono un editore, chi vuole parlare di giochi, sì. Mi cerca, sì. Se non mi trova, vabbè, forse io tanto resto cercando. Forse non mi stava cercando, ma io comunque resto un editore. Sì. Per me è abbastanza avvilente andare su un sito di giochi e dire: ehi, guardate che ho pubblicato questa roba. Sì. Qui, cioè, ogni tanto è una cosa sui che si fa quando stai per cominciare, poi quando hai cominciato hai capito un po' come funziona il mercato, come funziona quello di cui hai bisogno tu per produrre un gioco, eccetera eccetera, diventi anche un pochettino più saggio, nel senso muovi le pedine con più occhio, non hai bisogno di farti vedere proprio da tutti. Dici: ah, guardate, guarda, qualcuno poi, forse mi... Poi, per carità, ci sono un paio di siti che sì, mandi la notizia, mandi sì. La news, perché poi appunto il mercato in effetti è piccolo in Italia, quindi anche il distributore è contento se l'editore si sì. Un pochino di promozione se la fa. Però ad esempio poi con questo progetto 011, per questo progetto qui ad esempio, io ho incontrato dei giornalisti a Norimberga, sì. Anche giornalisti italiani, sì. E praticamente ho presentato il progetto a Norimberga, sì. Questa cosa qui ha fatto sì che di questo progetto se ne parlasse anche in Italia, di riflesso si è arrivati ad avere un po' più di attesa e comunicazione. Poi appunto, essendo legato in parte a una cosa musicale, a un corto che gireremo, sì. Eccetera, quindi c'è un altro canale che fa sì. Parlare del gioco. Però è importante che, secondo me, non vada io in giro a dire: ehi, io sono un editore, ho appena pubblicato un gioco sì. Fichissimo. Anche perché, esatto, cioè potrebbe anche non esserci nessuna reazione, tipo sei un altro piccolo editore che produce un altro piccolo gioco, non sì. È detto che ci piaccia, è sempre un rischio, appunto, un tiro di dadi, giusto per tornare sì. A invece io gioco la carta, non tiro il dado, già gioco. Ma probabilmente il passaggio è l'esperienza, no? Dal giovane autore allo scafato editore, il passaggio è quello stesso che c'è tra il dado e la carta, a un certo punto. Per come la vedo io, sì. Bim bum bale giù! Io ti farei un'ultima domanda, vai. Sulla quale possiamo elucubrare ancora un po', che mi è partita 20 minuti fa, quando si parlava ancora di come si considera un giocatore, un autore di giochi. E tu hai detto che consideri, essendo tu editore adesso, l'autore di giochi lo consideri un artista. E a me di riflesso mi è venuto di farti questa domanda qui. Secondo te, occhio, mano alle cuffie, mano al pulsante, secondo te un gioco racconta una visione della realtà? Cioè, nel senso, se è un artista vuol dire che dietro un gioco c'è un'idea sul mondo che l'autore vuole comunicare attraverso un gioco? Questo è possibile secondo te? Che sei anche un giocatore esperto e quindi probabilmente... Allora, da sappi autore... che non mi devi dare una risposta no, secca a questa domanda, anche darmi una tua riflessione. No, ma tanto abbiamo tutto il pomeriggio, abbiamo detto sì, che certo. Gli ascoltatori li uccidiamo con questa puntata. Esatto. E quindi l'autore di un gioco, appunto, c'è una piccola distinzione. Ultimamente io mi sto dedicando più all'ideazione di soggetti, e come nel caso di 011 ho passato la meccanica di un gioco, la costruzione della sì. Meccanica a un inventore di giochi che è sì. Proprio un inventore, che è quello che è successo più o meno con GDR, nel senso tu eri sì. L'ambientazione e Grassi era sì. Il sistema di cui adesso ho dimenticato il nome, Leviti. Era il sistema su cui è basato il sì. Gioco. Però ho perso il filo perché il discorso è abbastanza contorto, nel senso cioè, che cioè il soggettista e il sistemista per cominciare. Però in ogni caso è un racconto sì. Il gioco, l'invenzione di un gioco è un racconto. Da uno scrittore tu ti aspetti che possa raccontare una parte della sua visione della realtà. Sì. Ma potrebbe anche raccontare una storia totalmente di fantasia. Sì. Di fatto, quando io mi cimento in una scrittura di un racconto, in uno dei racconti che ho scritto ci sono quattro nani, ciascuno dei quali è un po' rappresenta me. Sì, sì. Ok, per dire proprio... questa. Ecco. No, perché a partire dal fatto che uno di questi ha la R moscia. Ecco, che già questo che nel libro è scritto proprio con la V al posto della R, okay. Quindi ti fai delle buone risate leggendo con le lettere sbagliate. No, in ogni caso il discorso è che magari nei racconti ci metti sempre un po' di te stesso. Sì. Per cui probabilmente in certi giochi c'è la visione della realtà dell'autore. Sì. In certi giochi, non so, di commercio, sì, può darsi che ci sia la visione ideologica di come si dovrebbe commerciare. Quindi, per usare un esempio che ultimamente ho dovuto affrontare per altre puntate, se nel risico americano il gioco è più sbilanciato verso l'attacco, mentre nel risico italiano l'aggiunta di un dado lo rende di nuovo un gioco, diciamo così, più di competizione, per cui vince quello che ha più carri armatini, per dirla brutale, forse ci sono due visioni diverse del mondo. Sì, probabilmente sì. C'è anche il fatto che ricadiamo nella questione che un certo sistema per l'Europa potrebbe funzionare, mentre per gli Stati Uniti no. E quindi che è una cosa di cui si potrebbe parlare. Questo se ne potrebbe parlare parecchio, però ad esempio, per dire, la scelta del nome di un gioco è una cosa da ponderare, perché un piccolo editore non può permettersi l'edizione del gioco americano che si chiama in un modo, sì, e poi l'edizione del gioco, cioè ristampare completamente la scatola. Per la scatola, il regolamento, eccetera, il per resto. Il mercato europeo. Sì. Un piccolo editore come me stampa il gioco in 5 lingue con lo stesso titolo, e con questo titolo o la grafica deve andare incontro alle esigenze del mercato americano, del mercato europeo, che ne so, quindi, del mercato asiatico. Un altro consiglio ai giovani autori è: studiatevele bene e prima parlatene con gli editori. Sì. Studiatevele, ovviamente, sì, però parlatene con gli editori. Per esempio, sto collaborando alla grafica di un gioco il cui titolo provvisorio o come prototipo è Castles, sì, e sono mesi che stiamo dibattendo su quale sia poi alla fin fine il nome adatto per accontentare il mercato americano, il distributore americano, il mercato tedesco, il distributore tedesco. Non è per spaventare i giovani autori, no, che ci è per mesi. Invogliarli. No, la produzione di un gioco è una cosa lunga mesi, sì, questo è indubbio, non si può avere fretta, perché potrebbe non essere anche l'anno giusto per pubblicare un gioco ottimo. Sì. Bim bum ba! Cioè, un gioco ottimo potrebbe, per una questione di congiunture astrali di mercato, non sì, essere pubblicabile quest'anno, ma avere un successone strepitoso l'anno prossimo. Quindi anche su questo bisogna ascoltare e valutare bene le proposte che arrivano dall'estero o dalle persone con cui ci si confronta. Sì. Però in ogni caso la produzione di un gioco è una cosa lunghissima, perché una meccanica ha bisogno di essere playtestata, cioè sì, giocata. Talvolta mi dicono: ah, beh, fai le fiere di giochi, bello, vai a giocare. Sì. Per carità. Sì, tutto bene, però... Quando non giochi 7000 volte la stessa roba. Che però lo devi fare per sì, capire tutte le possibili eventualità, certo, eventualità. E poi un ultimo suggerimento, se abbiamo ancora tempo. Sì, adesso, sì, fate giocare o leggere il regolamento che l'autore di solito scrive convinto che sia il miglior regolamento, più chiaro sì, possibile. Fatelo leggere a un bambino. Sì, se l'abbiamo detto con un precedente ospite che i regolamenti sono noiosi, inspiegabili e insopportabili. Quindi è vero, è un buon consiglio. Fatelo leggere un bambino che intanto vi trova tutti gli errori possibili, perché il bambino dice: ma io non ho capito questa fase. E quindi non bisogna dirgli quindi è chiaro. Anche il fatto che dei figli è una mossa di mercato, in realtà. Beh, oddio, no, perché sono partiti più o meno insieme, però no, insomma sì, mia figlia fa 12 anni quest'anno, sì, la più grande, quindi lei io sono 11 che pubblico giochi, quindi non poteva conti. Essere fatti due conti. Però è importante fargli giocare i giochi, sì, e fargli anche leggere le fasi, perché io ogni tanto recupero con spesa proletaria, si chiama, giochi durante le fiere e cambio con altri editori, sì, oppure qualcuno mi regala un gioco, sì, e così io gli regalo il mio, insomma queste cose, certo, qua non amo molto questa cosa, però dipende da chi è l'interlocutore. Forse è bene imparare a farla comunque, sì, perché ma c'è tanto confronto in questo, ma anche dipende dall'interlocutore, sì, se uno viene mi dice tieni questo, mi dai uno dei tuoi, cos'è questo? Fammi esatto. prima capire se mi interessa. No, però generalmente si fa. In ogni caso, talvolta arrivo con questi giochi e li mollo direttamente ai miei figli per farli giocare, oppure li leggiamo insieme. Sì. E talvolta le domande dei bambini sui regolamenti sono proprio terrificanti, perché dice ma questa fase vuol dire questo o questo? E io da adulto non mi ero posto il problema. Sì. Io magari avevo capito. Magari non hai proprio la risposta lì a portata non di mano. Non ho la risposta lì a portata di mano, ma capisco che la fase scritta era equivoca magari. Sì. Che per una mente limpida è cristallino, il concetto invece. Ti faccio un'ultima domanda, mi dai una risposta secca, una domanda spiritosa. Ma non temi che i tuoi figli possano diventare persone serie a un certo punto e non amare più i giochi quanto li ami tu? Cosa ti aspetti dall'adolescenza dei tuoi bambini? Che si divertano. Oh, bene, una gran bella risposta. Che imparino a divertirsi, a giocare. Che imparino a giocare. Poi possono essere persone assolutamente serie, ma che sappiano giocare con se stessi, con le proprie remosce, con tutto. Bisogna essere ironici, autoironici. Questa è un po' la mia filosofia. Bim bum bale giù. Abbiamo concluso l'intervista con Paolo Vallerga, fondatore e amministratore della casa editrice Scribabs, nonché grafico, autore di giochi, scrittore di romanzi, attore, musicista e padre di famiglia. Lo ringraziamo della sua gentile partecipazione in attesa di future collaborazioni. Adesso passiamo la parola a Luca Cerrato e alla rubrica del Fogliaccio, che questa settimana ci parlerà di dadi. Bim bum bale giù presenta la rubrica del Fogliaccio, a cura di Luca Cerrato. L'argomento di questa puntata è il dado, un piccolo e semplice oggetto ludico in grado di creare dipendenza, costruire grandi fortune, ma anche distruggere regni. La sua fama è legata al gioco d'azzardo, ma non in tutti i giochi che fanno uso del dado la componente principale è la fortuna. Esistono dei giochi in cui la sorte viene controllata dal giocatore ed è il più abile a vincere. Nel tradizionale backgammon, il giocatore deve decidere in base al risultato del lancio dei due dadi quale delle sue 15 pedine muovere, tenendo conto che se avrà il termine della mossa delle pedine scoperte, queste rischiano di ricominciare dall'inizio il percorso verso il proprio settore interno e l'uscita, se l'avversario riesce a catturarle. Quindi bisogna conoscere i fondamentali del calcolo delle probabilità, come per esempio che lanciando due dadi il valore 7 ha più probabilità di uscita del 2. Tra i tanti giochi moderni che fanno uso di una discreta quantità di dadi possiamo ricordare Stone Age. Qui i dadi vengono utilizzati per produrre materie prime, legno, argilla, pietra e oro. A seconda del numero di proprio posizionati su un determinato elemento vengono lanciati un numero pari di dadi. La produzione è proporzionale al risultato del lancio dei dadi. Per esempio, per la produzione di legno si sommano tutti i dadi lanciati e si divide per 2 per determinare la quantità prodotta. Invece per l'oro si divide per 6. Dall'età della pietra passiamo ad un medioevo di fantasia. In Kingsburg ogni giocatore ha inizialmente a disposizione 3 dadi, mentre il tavoliere è composto da 18 caselle numerate da 1 a 18. Ognuna delle quali fa acquisire determinate risorse utili per la vittoria finale. I giocatori potranno occupare una o più caselle sommando il risultato del lancio. Una casella può essere occupata da un solo giocatore, quindi nelle proprie scelte bisogna tener conto del risultato del lancio dei dadi avversari. In Ishpan i dadi sono 9, più altri 3 opzionabili. I dadi con lo stesso risultato vengono raggruppati insieme e posizionati su una delle 6 caselle della torre di gioco. Il valore più alto viene posizionato sulla casella in cima alla torre, mentre il valore più basso sulla prima casella. Il resto dei dadi, a partire dal risultato più basso, vengono distribuiti incominciando dalla seconda casella. Al proprio turno, il giocatore sceglierà una casella della torre e, a seconda del numero di dadi presenti sulla casella, potrà popolare i negozi di Ishpan, ricevere soldi oppure cammelli. Per ultimo, vi presento Can't Stop. Il tavoliere è composto da 10 distinti percorsi, con una lunghezza variabile in funzione delle probabilità di ottenere un risultato sommando due dadi. Per esempio, i percorsi 2 e 12 sono lunghi 3 caselle, mentre il percorso 7 è lungo 13 caselle. Al proprio turno, i giocatori devono muovere, tramite il lancio di 4 dadi, almeno un proprio segnalino su uno dei 3 distinti percorsi scelti ad inizio turno. I movimenti sono virtuali fin quando il giocatore non decide di non lanciare più dadi per quel turno. Se con un lancio non riesce a muovere nessuno dei 3 segnalini, allora tutti gli avanzamenti fatti in quel turno sono persi. Vince chi riesce per primo a terminare 3 percorsi. Importante, quando un giocatore termina un percorso, questo è precluso a tutti i giocatori per il resto della partita. Bim bum bale giù! La nostra puntata si chiude qui. Abbiamo parlato di giochi e di creazione di giochi e di mercato di giochi in compagnia di Paolo Vallerga, fondatore e amministratore della casa editrice Scribabs. La produzione di giochi è un'attività industriale che comporta esperienza e furbizia, capacità di capire quali sono i segni vincenti per un prodotto che funziona e allo stesso tempo che sia sempre in grado di superare quello che c'è stato prima, attraverso la conoscenza degli strumenti che un gioco può utilizzare per catturare il pubblico più ampio possibile. È una visione piuttosto imprenditoriale del genere ludico e, d'altro canto, è un aspetto nuovo, inaspettato e comunque interessante sull'argomento. Ci ha insegnato per esempio che l'idea non è un oggetto statico impermeabile, ma si nutre del confronto con persone più esperte e che basta una piccola modifica per trasformare un gioco nelle regole anche nel pubblico. Per esempio, ai bambini piacciono molto i dadi e agli adulti le carte, per cui la teoria dei giochi e delle informazioni di cui abbiamo parlato all'inizio delle nostre puntate. Inoltre, la creazione di un gioco non è un'impresa solitaria, è un lavoro di squadra, lento e ponderato, forse meno romantico di quanto può aspettare un giovane conduttore radiofonico alle prime armi, ma non per questo meno affascinante. Ringraziamo quindi Paolo Vallerga per le sue interessanti informazioni e Luca Cerrato per la rubrica del fogliaccio, nonché Carlo alla parte tecnica. Io sono Francesco, l'appuntamento con Bim Bum Bale Giù è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo.